America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24. Romney ce l'ha fatta in Michigan. Thank you, Michigan. What a win. This is a big night. Thanks, you guys. And in this room are the people who knocked on the doors and made the calls and went to the polls, and it made an enormous difference. We didn't win by a lot, but we won by enough, and that's all that counts. È stata una vittoria sofferta, naturalmente, 41% contro il 38% di Santorum, dunque ha avuto molto filo da torcere in questo suo stato, il Michigan, dove è nato, dove è cresciuto, dove suo padre è stato un executive nel settore automobilistico e poi addirittura governatore dello stato. Nel discorso che vi ho fatto ascoltare, Mitt Romney, devo dire, con un certo spirito ha sottolineato questo momento difficile, ha detto: ce l'abbiamo fatta per quanto basta, è un margine di vittoria che per noi è sufficiente. Poi è passato all'attacco politico, ha messo in chiaro che per lui l'avversario da battere è Barack Obama, non Rick Santorum. Davvero, dice, abbiamo bisogno di una ripresa, Barack Obama non ce l'ha dato e quindi sono io a dire yes we can, siamo noi repubblicani che potremmo riportare il paese sulla buona strada. Il problema per Romney è che in realtà in Michigan la gente è molto preoccupata per l'economia e devo dire che mi sembra piuttosto grata per l'intervento di Barack Obama, per quello che è riuscito a fare nel settore automobilistico. Dunque Romney sì, si scaglia contro Barack Obama, in realtà il suo problema resta per ora Rick Santorum. A month ago they didn't know who we are, but they do now. You know, we came into the backyard of one of my opponents in a race that everyone said, well, just ignore, you have really no chance here. And the people of Michigan looked into the hearts of the candidates, and all I have to say is, I love you back. Avete ascoltato qui Santorum, si è congratulato con Mitt Romney, ha detto ha vinto, gli ha fatto l'onore delle armi, ma ha chiarito che non molla e ha detto in questo breve stacco che vi ho fatto sentire, un mese fa non sapevano chi fossi, ora lo sanno, il mondo sa chi è Rick Santorum e a questo punto andrò avanti. Ecco, qui ci si pone un problema di tipo politico, si tratta di capire fino a che punto Rick Santorum andrà avanti. Il prossimo appuntamento immediato è il Super Tuesday, uno scontro in 10 stati, uno scontro che costringerà i candidati davvero a mettere a dura prova la loro macchina politica, la loro macchina organizzativa, e su questo fronte devo dire non c'è nessuno fra gli altri che restano in corsa, Newt Gingrich e Ron Paul, oltre a Santorum naturalmente, in grado di avere una macchina da guerra come quella che ha a disposizione Mitt Romney. Lo scontro di martedì sarà su 10 stati in contemporanea e in uno di questi stati ci saranno buone probabilità per uno come Newt Gingrich di fare piuttosto bene. Sentiamo Gingrich. First of all, Governor Deal, thank you for your generous time and for everything you've put up with. He's been an enormous help. He's a great governor and I'm just thrilled that he is with us and he's our state chairman and he's doing a great job and thank you, sir. Gingrich in declino. Gingrich non è andato bene in Michigan, ha avuto soltanto il 7% dei voti, secondo me dovrebbe andarsene, è chiaro che la sua è una partita finita. Pensate, se non avesse partecipato alla corsa del Michigan, probabilmente Santorum con quel 7% sarebbe riuscito a portarsi in avanti rispetto a Mitt Romney e a cambiare il percorso di queste elezioni. Ora, non che tutto il 7% potesse andare a Santorum, però sicuramente le sue probabilità aumentavano. Dunque c'è una spaccatura nel contesto della destra repubblicana, questo lo sappiamo da tempo, e nessuno riesce a fare un passo indietro. Gingrich cercherà di affermarsi, secondo me, almeno in Georgia, il suo stato, martedì prossimo durante il Super Tuesday. Probabilmente dopo aver chiuso, diciamo così, in bellezza, magari con la vittoria in un altro stato, forse due, perché è piuttosto forte anche in Ohio, anche in Virginia, ecco, allora magari potrà decidere di ritirarsi. Ma lo farà davvero sull'onda di vittorie possibili? Non lo so, non credo, perché poi alla fine un candidato politico cerca di restare in corsa fino a quando può. E dunque la battaglia in questo momento paradossalmente resta fra Santorum e Gingrich, anche se Gingrich, come abbiamo visto, in Michigan si trova in maggiori difficoltà. C'è anche in corsa Ron Paul, molto stabile, riesce a prendere comunque sempre intorno al 12%, 13%, il candidato libertario, ricordiamolo, non è propriamente della destra repubblicana. Io sono quasi sicuro che Ron Paul resterà in corsa fino alla fine. Dovendo fare un quadro strategico di quel che succederà in queste elezioni, credo che anche Santorum cercherà di restare in corsa quanto più possibile per cercare di affermarsi come il secondo candidato, per cercare di mettere sul tavolo le sue credenziali per il 2016 nel caso Mitt Romney non dovesse farcela contro Barack Obama, per ottenere magari una nomina a vicepresidente nella corsa contro il presidente in carica. Dunque la battaglia resta aperta, ci saranno ancora molti stati, ma c'è inevitabile una conseguenza molto negativa per i repubblicani, questa lacerazione interna, il fatto che la destra militante riesca in qualche modo a prevalere, a continuare a creare difficoltà per Romney, che rappresenta più il centro, aiuta Barack Obama, il quale in un sondaggio di ieri, pensate, si trova con un vantaggio del 10% rispetto a chiunque degli altri candidati repubblicani, e dunque Barack Obama di questo ne approfitta. I'm driven by that same belief that everybody should deserve a chance. So I promise you this, as long as you've got an ounce of fight left in you, I'll have a ton of fight left in me. We're going to keep on fighting to make our economy stronger, to put our friends and neighbors back to work faster, to give our children even more opportunity, to make sure that the United States of America remains the greatest nation on earth. Thank you, UAW. I love you. God bless you. God bless the work you do. God bless the United States of America. Il presidente americano naturalmente non si tira indietro, proprio nel giorno in cui c'erano le primarie nel Michigan e in Arizona dove tra l'altro Mitt Romney ha fatto benissimo, era un voto scontato, non vi ho dato neanche i risultati dell'Arizona perché Mitt Romney ha vinto addirittura con il 48% contro il 24% di Santorum, c'è anche una forte componente di popolazione di religione mormona in Arizona, dunque l'Arizona era scontato, ma comunque in questa giornata di primarie repubblicane Barack Obama ha partecipato all'incontro del sindacato dell'auto a Washington ed è intervenuto, direi, a gamba tesa contro i repubblicani. Non ha mai menzionato direttamente nessuno dei suoi concorrenti, ma a un certo punto del suo discorso, un discorso di grande elogio per i lavoratori dell'auto, di rivendicazione di aver fatto la cosa giusta nel momento in cui ha cercato e ha deciso di intervenire per salvare il settore, ecco, nel contesto elegiaco di questo suo discorso ha anche detto: ci sono alcuni politici che continuano a dire che avremmo dovuto lasciare fallire Detroit, fallire il settore dell'auto e creare un baratro economico per il nostro paese. Ecco, in questo confronto io credo che Barack Obama sul settore auto finirà per prevalere contro il messaggio dei repubblicani. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Dopo il successo al Super Bowl, Madonna riesce ancora a far parlare di sé con il lancio del suo nuovo single Girl Gone Wild di Madonna. Milano è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.